Medito ogni mattina, ogni giorno è wake and bake. Circondato da torri, me ne accorgo al primo take. Sirene nel club, tutto compreso, il viso è fake. Tatuaggi sul corpo, piani di fuga, prison break. Faccio affari con la sinistra, prego con la destra. Normale avere un emicrania, taglia sulla testa. Se stare in strada è un peso, sono cresciuto in palestra. In questa bufera di perfetto c'è solo la tempesta. Voglio lasciare la city e non metterci più piede. Sono cresciuto occhio per occhio e occhio si vede. Com'è che qua giù soli senza Dio hanno fede? Io coi tunnel sotto i poster appesi alla parete. Rockstar, Johnny Cash, vesto Man in Black. Mi travesto per integrarmi, alieno Man in Black. Yeah, fast life, fast food, vita Shake Shack. In questa scena Kurt Cobain in mezzo ai Take That. Quanti giorni a progettare fughe via di qua. Strano sentirmi straniero nella mia città. Cado solo per rialzarmi, sono affari miei. Anche un mare di persone. La vita gioca al dottore, io mi sento il paziente. Il karma regola tutto, quello che sale scende. E ora che non mi vedi più mi aspetti a luci spente. Perché la mancanza rende il cuore riconoscente. Non hai idea di cosa ho visto a occhi chiusi. Tutto crea dipendenza, tu di quale droga abusi. E se la vita è caina, guardati da tuo fratello. Se i soldi tappano il naso, la fame accende il cervello. Sono nato in volo e non ho intenzione di atterrare. La vita è un film, se non ti piace cambia canale. Metto i soldi sul conto ma non ci posso contare. Perché vanno e vengono come bottiglie nel mare. Cerco risposte, gli angeli mi parlano nel vento. Ma soltanto se ascolto il silenzio li sento. Solo un uomo sano si accorge che sta impazzendo. In un Audi che è bulletproof ma il nemico dentro. Quanti giorni a progettare fughe via di qua. Strano sentirmi straniero nella mia città. Cado solo per rialzarmi, sono affari miei. Anche un mare di persone. Fede, io di fede non ne ho. Come si può, ma il fuoco nelle vene. Angeli e demoni. Come si può avere ancora fede, io di fede non ne ho. Come si può, ma il fuoco nelle vene. Angeli e demoni.